quindi sull'internazionalità. Noi quando abbiamo cominciato a fare questo prodotto, siccome che è una nicchia, e vendere in Europa all'inizio, cioè vendere in Italia all'inizio era molto difficile perché i clienti che potevano vendere i nostri prodotti erano pochi, abbiamo deciso sin da subito trattare tutto il resto dell'Europa già da 30 anni fa come trattavamo l'Italia. Quindi la nostra distribuzione dalla Svizzera alla Francia, no? Appena ad esempio hanno dato la possibilità di andare a vendere in Russia, abbiamo preso un architetto donna che ha fatto architettura a Bologna e l'abbiamo messa come nostra agente per vendere in Russia. Quindi anche in Russia siamo stati tra i primi a poter commercializzare i prodotti, perché cioè, per me è stato sempre una nazione, un mondo unico, voglio dire, per il nostro prodotto vendere a Pesaro o vendere a Zurigo non cambia proprio niente, quindi la nostra distribuzione è da tanti anni a 360 gradi in Europa. Questo per quanto riguarda la distribuzione, invece dal punto di vista della produzione quanta Europa c'è in questa azienda? Dal punto di vista del design noi siamo stati fortunati, forse un po' anche accorti nel cercare dei progettisti a livello internazionale. Difatti siamo stati i primi ad avere Philip Starck, siamo stati tra i primi ad avere Ronarad o tanti altri che comunque oggi sono delle star internazionali, ma oggi questo qui c'è il mio figlio che sta seguendo, ma se vediamo anche dei progetti che abbiamo qui in fiera, Xavier Lust credo che sia un designer internazionale, ma tanti altri che noi stiamo inserendo all'interno della nostra progettazione sono internazionali. Anche ieri l'altro abbiamo parlato con dei designer australiani, con dei designer di altre nazioni a livello internazionale, a livello mondiale, perché solo così possiamo pensare di fare un futuro che ci possa dare delle soddisfazioni. Un'ultima domanda su questa specialità vostra che è il vetro curvato. Sì. Due parole su questo oggetto particolare che è questa scrivania in cristallo. Quando c'è arrivata tutti si chiedevano, anche i miei tecnici, come si poteva realizzare questo oggetto, perché ha una fluidità nel segno che viene sommata alla fluidità delle curve e alla fine si tratta di bloccare poi la base che sembra proprio una chiglia di una nave, col sopra che ha una forma bolidistica, sembra proprio un qualche cosa che abbia della velocità interna, e il tutto è disegnato con delle misure auree che alla fine lo rendono un prodotto veramente straordinario. Tutti quelli che vengono qui si incantano proprio a guardarlo e andarsi a sedersi dietro. È un progetto proiettato proprio per il futuro, no? E questo lo si avverte subito. Ci abbiamo messo 2 anni per riuscire a fare tutto questo nei nostri laboratori, per dare la forma a questo che poteva essere un sogno, ma finalmente, grazie a Dio, oggi l'abbiamo realizzato e ci siamo riusciti. Oggetti che sembrano facili alla fine da vedere, ma dietro che tipo di tecnologia c'è nella produzione? Noi quando abbiamo iniziato il nostro lavoro abbiamo inventato un mestiere, no? E il nostro è un mestiere che non esisteva. Tutte le volte che andiamo avanti tecnologicamente, tutte le volte che ci arrivano dei progetti difficili, per noi l'innovazione è un obbligo e ce l'abbiamo nel DNA, perché con il nostro materiale, facendo solo vetro, se non facciamo ricerca sia tecnologica che di design, non potremo andare avanti con la nostra azienda. E quindi è un qualche cosa, te lo ripeto, che è cresciuto nel nostro DNA, e tutti quelli che lavorano con noi all'interno dell'azienda tutti i giorni pensano cosa fare per fare un passo avanti rispetto a ieri. Questo negli anni poi si accumula e ti danno quell'esperienza di poter fare anche queste cose o altri progetti più ambiziosi per il futuro.